che dire, bentornati su Radio ZM. Siamo alla terza puntata di questo programma pazzesco. Sta per iniziare pure la playlist che si è messa di sottofondo, questo programma pazzesco. Sì, no, incredibile tutto questo. Tra l'altro, ginnastica per sale d'attesa, ricordiamo il programma che non stavate aspettando, tra l'altro, e aggiungerei a questo punto, e se anche lo stavate aspettando non sapete quando arriverà. Non è così. È un misto tra Waiting for Godot e Il Grande Fratello. Cioè, c'è qualcosa di no sense che però a un certo punto dici succederà qualcosa prima o poi. Esatto, e a un certo punto succede veramente la terza puntata di Ginnastica per sale d'attesa. Incredibile, ragazzi, incredibile. E voi vi chiederete, ma il tema? Allora, facciamo un po' di premesse. No, io vorrei fare l'angolo, la rubrica che non so se verrà... avrà nuovi e successivi sviluppi, ma tant'è, l'angolo dell'utilità nell'inutilità. Quindi il fatto che siano superflue delle cose non toglie che potenzialmente si potrebbe usare questa informazione, nel senso che quello che stavo pensando, anzi in realtà ne parlavamo proprio ieri a Zam, era che fondamentalmente in Libano, quindi in una situazione decisamente contemporanea, nel momento di vuoto istituzionale causato da questa serie di avvenimenti che stanno prendendo piede in questi giorni, chi è andato a visitare il paese privo di istituzione? Macron. Ecco. Macron perché? Perché il Libano è uno stato che fondamentalmente nasce, anzi un territorio che era col regime ottomano, che si è dissolto durante la fine della prima guerra mondiale, e la società delle nazioni, la civilissima e occidentalissima società delle nazioni, ha affidato questo territorio, non so in virtù di che cosa, alla Francia. Quindi la Francia praticamente ha tenuto il piede lì fino agli inizi degli anni 40, quando ha poi dichiarato l'indipendenza. Detto questo, lo trovavo abbastanza interessante, perché mi è venuto in mente come effettivamente la puntata della volta scorsa, no? Che era sulla guerra d'Algeria, quindi su un territorio abbastanza vicino anche tutto sommato nella geografia mondiale, che aveva la Francia nel suo passato di governo del territorio. Alla fine 2020, cioè agosto 2020, in un vuoto istituzionale in cui il governo ha dato le dimissioni, a dire ragazzi tranquilli, abbiate fiducia, si risolverà tutto, e a chiedere, a tirare la giacca delle Nazioni Unite, c'è il presidente della Francia. Quindi sono tra l'altro che... era lì il terzo giorno, giorni dopo era già lì per gli aiuti che sono arrivati alla Francia, che si è messa prima ancora che il governo si ritirasse. Quindi si parla di qualche giorno fa. Il secondo giorno no, perché c'erano i detriti ancora fumanti probabilmente. Il terzo giorno, in giacca e cravatta, camminava con la sua equipe in mezzo ai detriti. Quindi effettivamente è una storia che fondamentalmente, stiamo parlando di un territorio che è diventato indipendente all'inizio degli anni 40, se non erro. E abbiamo visto che la situazione dell'Algeria invece si risolve tipo 20 anni dopo, fondamentalmente. Quindi potenzialmente, con ancora più vicinanza, potenzialmente sono una serie di dinamiche storiche che a distanza di poco tempo, tutto sommato, nell'economia della storia dell'umanità, si ripercuote sulle cose che leggiamo in questi giorni. Quindi, come vedi, c'era Ginnastica qualche cosa per sale d'attesa di arriva pure lì. È incredibile. Esattamente. È incredibile. Esattamente. È un po' come Massimo Pericolo col video per i fatti di Piacenza. Stessa cosa. Arriva proprio lì dove deve arrivare. Zitto, zitto. Quindi, che dire, scriveteci alla bellissima chat che abbiamo appena aperto sul computer. Qui il ventilatore, devo dire che fa un bel effetto, si sta molto meglio che a Sky. Molto meglio. Questa dolce arietta che ogni tanto ci carezza i capelli. e scriveteci alla chat di Telegram @radiozam_chat. Andate ad ascoltarvi tutti i podcast, anche quelli di Ginnastica per Stare Attesa, sono già editati, sono già disponibili. Che dire, noi partiamo magari con la sigla, con la bellissima sigla di questo programma, che secondo me è una delle sigle più belle che è stata. Cosa ci sta dicendo il computer? Vai, Chiara, è il momento tuo, intrattieni. Allora, intrattengo a questo punto con un'altra comunicazione di servizio. E cioè, nonostante noi tendenzialmente diciamo che stiamo scegliendo delle tematiche fuori sincrono rispetto a tutto, è per me doveroso ricordare un anniversario di oggi, che è l'11 di agosto, e 47 anni fa, in una, diciamo, in uno spazio comune di un grosso condominio statunitense, è stata lanciata questa festa per una ragazzina sorella di J. Kulerk, e a, diciamo, distanza di 47 anni questo è l'anniversario della nascita dell'hip hop, quindi direi che super props. Abbiamo trovato la sigla. A questo punto lanciamo la sigla, direi. Fugazzi a rinnovare con gioia la nostra ginnastica per sale d'attesa. Quindi a questo punto passiamo, effettivamente entriamo un po' nel vivo della puntata. Ora, la puntata di oggi è diversa da quelle di prima, ma anche la seconda è diversa dalla prima, quindi praticamente sono 17 puntate diverse, programmi diversi l'uno dall'altro, nel senso che questa volta, tirando i dadi, siamo finiti su una casella arancione, e l'arancione prevede l'argomento ben più leggero della storia, tendenzialmente, che è hobby e sports. Quindi, fondamentalmente, parleremo adesso, non vi svelo ancora di che cosa, ma diciamo ne parleremo, e evidentemente ci saranno pochino di cose di meno da dire, ma contemporaneamente possiamo allargare un po' lo sguardo e guardare che cosa succede intorno. In particolare sarà una puntata abbastanza dominata dalla musica, perché fa molto ambient, e nello specifico fondamentalmente di che cosa stiamo per parlare? Stiamo per parlare di un oggetto della dimensione di 70 centimetri per i bambini e un metro per gli adulti, che divenne celebre a partire dal 1958 negli Stati Uniti. E con celebre intendo che ne furono venduti nei primi mesi oltre 25 milioni e in due anni ne sono stati venduti 100 milioni di esemplari. Altrettanto abbastanza celebre da influenzare una, diciamo, un'altra sfera rispetto a quella degli hobby e degli sport non meglio identificati, che per il momento stiamo dipingendo, cioè quella della musica. E in effetti adesso ci ascoltiamo una canzone che viene suonata da Georgia Gibbs nel 6 settembre del 1958 e viene suonata al The Ed Sullivan Show, che è fondamentalmente uno dei programmi che ha fatto un po' la storia del dopoguerra negli Stati Uniti. Era tipo un varietà, fondamentalmente una di quelle robe che si guardavano tutti così. E insomma, il 6 settembre del 58 questa giovinetta ha dedicato una canzone a questo oggetto che poi diventerà di culto. A red ones and a green ones, yellow, white and blue. Hula hoop. Young and older, rich and poor, are spinning them too. Hula hula hula. Hula hoop, hula hoop. Everyone is playing with the hula hoop. Look at them spin, trying to win. Anyone can play from 3 to 110. Insomma, tutti possono giocare dai 3 anni ai 110, quindi questo era una hit, è diventata una hit nel 1958 e fondamentalmente appunto racconta le gesta di questo oggetto che sarebbe diventato nel giro di pochissimo di dominio appunto super pubblico e di popolarità estrema. E quindi oggi parleremo un po' di hula hoop, che è l'argomento della puntata. Ora, in realtà uno dei motivi per cui volevo iniziare anche con questa canzone, oltre che comunque se hai una canzone dedicata, cioè vuol dire che spacchi tendenzialmente, e cosa che probabilmente potrebbe valere anche per un botto di macchine a cui sono state dedicate un sacco di canzoni di rappers. Però comunque, vabbè, al di là di questo, insomma, hula hoop, quindi abbiamo detto, questo cerchio di plastica che viene realizzato in realtà in varie dimensioni, tendenzialmente appunto fra i 70 cm e l'un metro. Hula hoop, di cui oggi proveremo a parlare un po' di cose varie, potremmo provare a dire delle robe un po' varie ed eventuali. Uno degli altri motivi per cui secondo me era interessante iniziare da questa canzone era che, avendo sentito questa canzone, sono entrate in un loop orribile di cantanti con la brillantina e il doppio petto e coppie che ballano lanciandosi sulla pista a ritmo di tutte le sonorità un po' vintage, così anni 50-60. Fondamentalmente, quindi, ho scaricato appunto sul database delle mie richieste personali dei vinili un gran numero di canzoni che stanno comparendo in sottofondo, e altrettanto, in realtà ce ne saranno parecchie all'interno di questa trasmissione. Ora, una delle prime cose che volevo dire in realtà c'entra e non c'entra con gli Hula Hoop, nel senso che una delle cose che ultimi barlumi di scienza e di logica prima di abbandonarmi al delirio cosmico era che mi sono accorta che stavamo parlando del 58 e che effettivamente tutte questa playlist ricorda tutta una serie di immaginari da film e da cultura popolare, diciamo abbastanza di cultura generale, e ho pensato che in realtà al tempo stesso la veduta sincronica, quindi quello che succede contemporaneamente per puro caso, nel senso che non l'ho fatto apposta, cioè non sapevo che sarebbe successa questa cosa, non sapevo di legarmi al 1958 come anno, ma in realtà ho pensato che effettivamente nel 1958, che è un po' l'anno che caratterizzerà tutta la puntata di oggi, aveva parzialmente caratterizzato anche la puntata della volta scorsa, perché effettivamente la guerra d'Algeria è da un'altra parte nel mondo, ma il 58 è un anno abbastanza rilevante all'interno di quella cosa, quindi vediamo anche da cose a caso che contemporaneamente sul pianeta succedevano due cose che ci portano ad affrontare anche solo la puntata in maniera completamente diversa. E infatti qua siamo in super anno di gioia, 1958, e adesso poi spiegheremo in realtà fra un bel po' come perché, insomma, che cosa succede nel 1958, ma tanto per contestualizzare, come dire, 1958 è il tripudio del rock, nel senso che è nato nel 1958 con Rock Around the Clock, quindi siamo in un momento di super esplosione musicale e siamo anche in un momento molto interessante, diciamo degli sviluppi sociali, perché gli anni 50 sono un po' gli anni in cui fondamentalmente nasce a livello di composizione sociale il giovane e l'adolescente, come dire, nel senso che fino a prima c'era il bambino, poi a un certo punto toglievi le braghine corte, ti mettevi le braghe lunghe ed eri un uomo, quindi non c'era una via di mezzo, no? A 9 anni già eri un uomo, magari un po' giovane, ma fondamentalmente un uomo. E invece a sto giro, come dire, il giovane spunta come categoria sociale, spunta abbastanza in maniera preminente dal punto di vista musicale, ed effettivamente volevo iniziare subito così a palla con due canzoni che sono del 1958, così come la meno conosciuta Hula Hoop Song di prima, una delle più famose probabilmente canzoni da questo punto di vista è dei The Champs, e adesso la sentiamo, si chiama Tequila. Tequila. Insomma, questa canzone, che è super mega famosa, è del 1958. E tra l'altro, fra le altre cose a caso che ho scoperto, è che questi The Champs, che sono appunto gli autori di questa canzone, sono fra i fondatori del cosiddetto Chicano Rock, di cui io onestamente non avevo nozione, ma questo è molto bello, e che è appunto questo rock con tinte latineggianti, e loro sono appunto fra i fondatori, insieme fra gli altri a Richie Valens, che è un tizio che è morto 17enne in un incidente aereo l'anno dopo, insieme a e sta cosa qua è stata abbastanza iconica perché sono morti in due o tre, fra cui Buddy Holly, di cui abbiamo sentito una canzone prima. E appunto questo Richie Valens era un ragazzo giovanissimo, 17enne, il quale però era già diventato famoso l'anno prima, cioè nel 58 anche lui, per una canzone che è iper mega famosa anche questa, ma che onestamente non sapevo fosse sua, perché è ben più nota nella versione dei Los Lobos, e la canzone di cui sto parlando è questa qua. Bamba di Richie Valens, lo sapevi tu? Guarda, la musica che stai mettendo in questa puntata mi sta facendo sciogliere, è bellissima, infatti sto rompendo palle, ovaie e tutto su Telegram, la sto mandando qua. Molto bello, molto bello, hai visto? È un giovinissimo Richie Valens, per l'appunto, e niente, questo per dire, un po' fatto ambient però, un po' fatto. Tantissimo. Che sono questi ritmi che abbiamo sentito un po' tutti nelle audiocassette dell'unità. E dei giornali nell'autoradio della macchina, un po' quell'ambientazione lì, no? Eh sì, tantissimo. Comunque, vabbè, insomma, dicevamo, Hula Hoop, gli Stati Uniti cadono effettivamente in una vera e propria febbre da Hula Hoop, quindi abbiamo detto oltre 25 milioni nei primi mesi e 100 milioni in due anni, un ritmo abbastanza prepotente che fondamentalmente perdura per tutti gli anni 70. Verso gli anni 80 inizia a decadere un po' la popolarità, principalmente perché inizia la grande era dei videogiochi, correggimi se sbaglio. Oh yes, poi c'è un episodio di oggi che devo raccontare alla fine della puntata. Che meraviglia. Arrivano i videogiochi, questa febbre che ha preso. Quindi la gente, invece che saltellare sgraziatamente con un cerchio intorno alla vita, saltellava con Super Mario. Inizia a saltellare con Super Mario e a giocare a Pong, probabilmente, esatto, invece che giocare a racchettoni. E quindi niente, fondamentalmente la sua popolarità inizia a decadere, rimane nei circhi e tendenzialmente anche negli spettacoli di ginnastica ritmica, per quanto utilizzato in maniera diversa. Ma anche come esercizio fisico? Allora, anche come esercizio la regia fisico, si permette di fare una domanda a gamba tesa. Anche come esercizio fisico, ti dirò, hai addirittura anticipato una cosa, te lo dico subito, guarda. Ho addirittura il momento fitness. Ricordiamo che la regia non sa assolutamente niente dello script della puntata, quindi è tutta lungimiranza. Cioè, ci hai beccato, perché effettivamente è il momento fitness, con questo caldo poi è proprio l'idea migliore, come uscire nelle ore più calde e bere poca acqua. La mattina io sto facendo la corda. Bravo, molto. Allora hai deciso. E poi il prossimo passo è giocare a campana nel salotto. No, pensavo Lula Hop dopo. No, Lula Hop spacca. E effettivamente, allora, io ho provato a cercare addirittura quante calorie si bruciano. Cioè, intanto però spezziamo una lancia per la playlist di Chiara, perché poi d'improvviso no, aspetta, fermi tutti. È in sottofondo, momento aneddoto. No, ma guarda, parliamone. Perché io sono andata a cercare, ho pensato fosse un errore, la classifica della Billboard, ok, sì, dei 100 più venduti del 1958. Certo. Sono tutti artisti statunitensi, evidentemente. Sì. Ma il primo, Modugno. Non ci volare, posso credere, te lo giuro. Non ci è posso proprio, credere. È proprio lui. Cioè, classifica Billboard mondiale di vendita del 1958, e nel 59 fra le prime 10 compariva una cover. Madonna, ti dico solo questo. Beh, io adoro sto pezzo. È bello, no? Bello. Ho detto, magari è un errore della playlist, invece l'hai proprio inserito proprio in playlist. Vero. Bene, scusa l'interruzione, andiamo avanti. In realtà, ovviamente, Domenicone Modugno fa sempre il suo effetto. È incredibile, è una cosa che ti giuro, ho sperato, guarda, era una chicca che hai beccato, sono molto soddisfatta che tu l'abbia fatto. Comunque dicevo che ho cercato di capire quante calorie si sprecassero facendo l'hula hop, perché ci sono in realtà un sacco di blog che, come dire, iniziano a parlare, o diciamo da qualche anno parlano del fitness di hula hop, che adesso c'è tutta la ginnastica con tutti gli attrezzi, è diventato tutto aerobico e zero pesi, così, e quindi giustamente c'è, ma praticamente ho scoperto che le calorie, non so, tu probabilmente la gente le decide tirando dei dadi a caso, come noi decidiamo, cioè, le sorti del programma. Ci sono 17 blog e ognuno dice dei numeri diversi, ma alcuni proprio totalmente privi di senso. Allora, facendo un po' una media di quello che succedeva e dei dati più acclamati, parrebbe, ma ripeto, è tutto discutibile, che si brucino fra le 160 e le 210 calorie ogni mezz'ora. Ma stai parlando con una persona che non sa nemmeno quante calorie dovremmo assumere in realtà. E guarda, cioè, fa bene o fa male perderne così tante? Sono 40 grammi di crostata al cioccolato. Che tu pensa stai perdendo. Che io ero, cioè, tu pensa che io ero così avanti, che ho anche anticipato il quante sono delle calorie. Quante sono? 40 grammi di crostata al cioccolato. Tutto questo è incredibile veramente. Non sbatti per niente. Per niente. Puoi fare 7 km di camminata o 3 e mezzo di corsa e ne perdi altrettante. Beh, pensando che sì, no, il signor Hank alla fine prevede un bel po' di tot di chilometri di camminata. Dovrei mangiare più crostata. 40 grammi di crostata di torta per te. Di più, sì, di sì, più. Sì, sì. Almeno 80, esagero. Che matto. Intanto salutiamo Domenico che ha concluso il suo volare. Ciao Domenico. La canzone volge al termine e torniamo. Andiamo su Elvis Presley. Ma Chiara, sì, ma ci siamo andati proprio da fare. Sì, ma sì, sono tutte canzoni del 58. Fantastico, tra l'altro. Fantastico. Incredibile. E anche se è un personaggio un po' molto ambiguo in realtà Elvis Presley, quindi non l'ho messo fra le canzoni di prima linea, diciamo, cioè non di prima linea come organizzazione, nel senso in prima linea. Certo, infatti in fondo Elvis. Sì, perché è una figura un po' ambigua e un po', diciamo, storicamente un po' non dei nostri. Vero. Un po' parecchio non dei nostri. Però, insomma, però probabilmente è nell'isola, quella con i tuoi amici che dovremmo non muoiono. Dovremmo fare una puntata a parte di ginnastica e persone d'attesa con Cigo. I finti morti. Le finte morti che potrebbe poi intersecarsi con i desaparecidos. Com'è che si chiamano? Aspetta, c'è un termine per identificare quel tipo di persone che iniziano una relazione amorosa e subito all'inizio, a un certo punto, scompaiono. Ghost qualcosa. Hanno un nome. Ho anche una persona da invitare perché è stata vittima di ghost qualcosa, ovvero è una sparizione effettiva. Cioè tu ti frequenti con una persona, che tu sia maschio o femmina indipendentemente, ti frequenti con una persona e dopo tipo 2 mesi ti inizi a conoscere. Scompare nel nulla, ma vuol dire che non risponde al telefono, nei messaggi, nelle chiamate, non risponde al citofono di casa. Ma tra l'altro scomparsa, cioè, praticamente la mia cultura di serie televisive sta facendo spuntare tipo pop-up nella mia testa, tipo 400 puntate di qualsiasi tipo di serie televisiva in cui qualcuno scompare. No, in cui l'amante scompare da veramente almeno 5 sitcom diverse. E noi abbiamo le prove che nella realtà succede esattamente la stessa cosa. Abbiamo anche le prove che c'è l'isola dei non morti. Sì, esatto. Su cui Elvis Presley, esatto, oramai liquefatto, sta passando le sue ultime giornate. So che quando tireremo fuori questo argomento ci potrebbe essere un linciaggio mediatico, almeno da parte mia, perché io sono convinto che anche Chester Bennington sia lì. Ma sono convinto che anche Michael Jackson sia lì. Ma ci sono Robbie Williams, un sacco di suicidi. Ma io secondo considero te lì c'è anche il come dire, il cocktail di gamberi con le siringhe infilate dentro, tipo nella puntata di Simpson. È tipo così, te lo immagini così, con il koala che gli si apre un occhio e fa uscire il fumo. Sì, di esatto, nervino, esatto, così. Una cosa del okay, genere, esatto, perfetto, esatto. Poi ovviamente perfetto, questo a discapito di parenti, amici, cioè tutto montato suo, bene bene. Ah, ok, ovviamente, quindi sì, i propri cari non sanno nulla comunque. Dipende, nel momento in cui devi prendere una decisione e devi sborsare una modica cifra. La modica cifra può funzionare anche verso i tuoi cari, però nel senso, nessuno deve saperlo. Capisci cosa sto dicendo? Tu paghi una modica cifra per far sì che il tuo individuo sparisca, quindi nessuno deve saperlo, anche i tuoi cari. Se invece vuoi che i tuoi cari lo sappiano, c'è un pacchetto, si vede, deluxe, che comprende anche far entrare loro all'interno di questa menzogna mondiale. Perché il punto è mantenere il segreto il più possibile. Ma Avril Lavigne fa parte di questa ensemble? Su di lei c'è qualcuno che potrebbe dedicarci qui, una, guarda, una puntata veramente intera. Ma infatti Cigo bisogna esatto, ma infatti gli facciamo fare uno speciale. Ci arrivano dei messaggi e io vi ricordo la chat che potete utilizzare per scriverci in diretta, che è @radiozam_chat solo su Telegram. Ci arrivano dei messaggi che dichiarano che Elvis è un pentito e anche Cigo è un pentito. Ora io veramente la radio della verità, c'è la bocca della verità e c'è la radio della verità. Noi siamo la radio della verità. Chiara, puoi andare avanti? Sì, niente, dicevamo appunto delle crostate di torta, ma a questo punto diciamo anche, diciamo anche un'altra cosa, che in realtà cosa è successo? Che dopo essersi conservata solo nella ginnastica ritmica e nei circhi, a un certo punto sono arrivati gli hipster con i baffi impomatati e le giovinette con la fascia nei capelli, e come qualsiasi altra cosa vintage hanno rivalutato anche l'hula hoop. Infatti e la mia ex ragazza, che era quello stile lì, ce l'aveva. Ho fatto una gaffa. Ma che? Ma va, no, ma è proprio quello il avevi modello. I risvoltini. Ma certo. Tu? No, lei sì. Lei. Allora, qua siamo in lapsus qua. Lapsus. E niente, allora, fondamentalmente, come vi dicevo, è tornato vintage, quindi andava in giro, scorrazzava con una hoop intorno alla vita? Sì, spesso e volentieri con la sorella gemella, pensate, e con la fascetta nei capelli, le calze tirate magari fin ma su, bello, i risvoltini, ma bello, la Lacoste ovunque, bello, bello, molto bello, vero? Molto bello, consigli bello di stile. Niente, fondamentalmente è nata addirittura dal 2003 per l'appunto una comunità online che si tiene in contatto e organizzando eventi di gruppo con musica, addirittura festival e vacanze a tema negli Stati Uniti, in Australia e anche in Europa. Così, perché voi lo sappiate, è così. Cioè, se volete fare parte di whooping.org, per chiunque voglia, lo segnaliamo, può diventare parte della, di questa comunità di hula hoppers, e speriamo che qualcuno di noi vinca le ritrosie e, Chiara, puoi e farci vi partecipi. Lo spelling? hoping.org, preceduto verosimilmente da un www, non so, così a naso. E quindi niente, fondamentalmente dopo aver detto tutte ste vaccate direi che possiamo passare a anzi no, quasi cambio così a caso, no, allora sì, direi che possiamo dire che ci sono ovviamente, quindi questo recupero del vintage ha fatto sì che se ne producessero altri 184.000 tipi, ed effettivamente ce ne sono, diciamo, nasce di plastica appunto abbastanza plain come design, e invece adesso ovviamente diventa con disegni particolari, fluorescenti o risplendenti, ce ne sono un tot anche con i LED per fare proprio giocoleria un po' punk, un po' rave, un po' così, e effettivamente addirittura si possono, ce ne sono alcuni con questi LED che si possono controllare tramite un telecomando per fare tutti i disegni, cioè pensate che ah, ma sì, ma li ho visti nei video del Burning Man, quella cosa tipo il rave dei ricchi, roba dei quella stronzata, esatto, okay. Che ci sono sti qua che fanno delle coreografie pazzesche con gli hula hoop, con i LED. Vedi, esattamente, effettivamente esistono, probabilmente si stanno scambiando i video su whooping.org, tra l'altro, sono probabilmente proprio loro, pare, tra l'altro, non lo sapevo, che gli hula hoop moderni siano fatti di tubi di plastica, ma che all'interno hanno un sostanzialmente un liquido per facilitarne la rotazione. Sto e quindi male. In realtà è appunto sia questo qua. Dopodiché in realtà a questo punto facciamo dei passi, svariati passi indietro, e andiamo a parlare di da dove arriva, insomma, fondamentalmente questo hula hoop, ma lo farei dopo aver ascoltato un'altra canzone che vi dico che mi ha sorpreso molto, perché nel mare di pop abbastanza diciamo frivolo nei contenuti di buona parte delle canzoni, ho scoperto che alcune canzoni, in particolare questa che è anche piuttosto famosa, ed effettivamente credo che di averla conosciuta in una sua cover di Johnny Cash, che è abbastanza sempre una garanzia di qualità. Appunto, questa canzone si chiama 16 Tones ed è in realtà di Tennessee Hardy Ford ed è del 55. La caratteristica di questa canzone è che fondamentalmente in realtà è una canzone politica, ed è il lamento, cioè riprende fondamentalmente il lamento dei minatori di, non saprei dire esattamente che stato, in questo momento mi sfugge, però è appunto il lamento dei minatori mentre lavorano, e effettivamente a un certo punto c'è, cioè nel ritornello dice appunto ho caricato 16 tonnellate, che cos'altro vuoi, un altro giorno è sempre più in debito, per favore non fatemi andare, perché devo la mia anima al padrone della compagnia, nel senso che Madonna. Erano effettivamente, ovviamente le come dire, le condizioni economiche dei minatori sono sempre state abbastanza basse, nello specifico appunto questa canzone riprende un po' quello, e quindi così volevo spingerlo un po'. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store. Hai capito quante cose che si imparano così, parlando di hula hoop, senza nessun motivo. E insomma, vabbè, a questo punto veniamo fondamentalmente a quelle che sono un po' le origini del cerchio, tenendo conto dell'hula hoop, tenendo conto che è abbastanza difficile parlare delle origini di una cosa che fondamentalmente è un cerchio. Quindi in realtà usata come cerchio, però ha Ma è una fini, metafora, è una metafora. È una metafora. Cioè, ginnastica per stare attesa è il significato della vita, come un cerchio si chiude, cioè, certo. È ovvio che è così. Si chiude, ma con tipo il bambino del video. Sì, esatto, poi c'è dell'acqua dentro, yeah, non si capisce. Esatto. E niente, fondamentalmente, quindi la verità è che per capire un po' quali sono state le evoluzioni di un cerchio utilizzato a scopo ludico, che è come possiamo fondamentalmente definire l'hula hoop, in realtà ha origini antichissime, nel senso che già gli egizi avevano creato dei cerchi fatti di erbe flessibili ma resistenti, tipo il giunco o il salice o la vite, li arrotolavano fondamentalmente e li facevano però rotolare a terra, quindi con le mani o con un bastone. Mi sta venendo... Vai. E in realtà già gli egizi in seguito avevano iniziato a farlo rotolare, roteare intorno al corpo, non necessariamente in vita, ma diciamo come giocoleria, diciamo, in una qualche maniera. Gli antichi greci invece, ne abbiamo tantissime tracce, nel senso che sono presenti in un sacco di cioè questi cerchi sono presenti in un sacco di otri e vari oggetti di vario uso. Nello specifico, appunto, loro lo utilizzavano come forma di esercizio fisico. Veniva utilizzato nelle palestre tipo ginnastica ritmica, fondamentalmente, e danza, con tecniche diverse, ma senza mai passare, diciamo, alla serie dei giochi seri. Quindi nelle competizioni sportive, che insomma per gli antichi egizi erano abbastanza un motivo di vanto, come dire, abbastanza una fede incrollabile, e in realtà il cerchio appunto non è mai passato alla fase successiva. Detto questo, appunto, in quello che si vede all'interno dei vari oggetti e suppellettili che sono stati trovati dell'antica Grecia, che questo cerchio chiamato cricoi era in realtà abbastanza grosso, cioè arrivava come diametro al petto, quindi abbastanza massiccio, e veniva spinto con un bastone che era piccoletto, in realtà molto, molto stretto, molto corto. Ed era considerata un'attività estremamente salutare, tanto che negli scritti di Ippocrate, che è quello del giuramento che fanno i medici prima di iniziare ad esercitare la loro professione, appunto in alcuni dei suoi testimonianze veniva raccomandata per rafforzare le costituzioni deboli. Ah. Non solo, ma è un gioco anche iconico, perché è un elemento che nel mito compare in particolare in un episodio, che è quello di Zeus e Ganimede, dove Zeus era, diciamo, aveva degli evidenti problemi, diciamo, di gestione della sua vita sessuale, e in linea di massima se ne fregava anche abbastanza del consenso, ecco, mettiamola così. E nello specifico, a un certo punto, Zeus arriva in un prato, diciamo, Zeus vede in un prato Ganimede, che è questo giovane bellissimo, super fisico, statuario, che ovviamente gioca nudo come tutti i greci usavano fare, e praticamente Zeus se ne innamora perdutamente e trasformatosi in gufo, si avvicina a lui, lo chiappa, in versione aquila, si avvicina a lui, se lo chiappa e se lo porta via, e quindi il cerchio diventa uno dei simboli della pederastia greca. Ma sto male. Sì, ed era, tra l'altro, tra le altre cose, era anche fra i giochi di Dioniso, che aveva tutti i suoi giochini, certo, speciali, certo. Da Dio qual era, e fra gli altri aveva appunto il cerchio, che quindi era abbastanza, come dire, protagonista, pur non essendo riconosciuto tale. Esattamente. A un certo punto che cosa succede? Succede che nel XIV secolo, più o meno nel 1300, anche in vediamo rispuntarne delle testimonianze, e nello specifico nel Regno Unito inizia a diventare super famoso il hoop, che effettivamente vuol dire cerchio, e diventa una vera e propria moda, tanto che bambini e adulti iniziano a trascorrere il loro tempo libero facendo roteare questi grandi cerchi, e fondamentalmente questa attività diviene talmente popolare che molte persone, a causa di un uso eccessivo di hoop, si lussano le spalle, certo. Gli vengono attacchi di cuore, tutto vero, che ci sono delle testimonianze. Tra l'altro, effettivamente, adesso io non sono riuscita minimamente a ricordare in che tipo di lettura potrebbe essere stato, ma ricordo che nella mia vita effettivamente avevo già visto nella letteratura tipo qualcosa di, non so, Oliver Twist, una roba così, di bambini che giocano correndo, cioè, nel senso, ce n'è abbastanza famoso, no? Era proprio l'immaginario che ho io in un sacco di film di guerra della Seconda Guerra Mondiale, esatto. Prima dell'inizio della guerra, esatto. Nel momento di pace, di gioco dei bambini, potrebbe essere visto sicuramente come il nascondino, la campana, mi viene in mente. Sì, mi vengono in mente, infatti, altri, le biglie, esattamente, non saprei, però l'immaginario è il... proprio anche il far rotolare questo cerchio, che sembrava proprio copertone di bici, esatto. O qualcosa del genere, con questo bastone. Mi sembra che sia proprio Chocolat che inizia così, se non sbaglio. Forse sì. O un altro film francese inizia forse così, sì. Aiutateci. Comunque, da sì, casa a rispondere a questa domanda. Forse C'era una volta in America. Vabbè, ci verrà in mente. Non so, non sono film proprio simili fra di loro, ma no, per niente. Però c'è questo immaginario del bambino che fa, sicuramente è vero, anche inglesi, effettivamente. E addirittura in realtà ci sono anche dei quadri, tipo quello di Peter Bruegel, che è un fiammingo abbastanza famoso, quindi si trova nella metà di est del Belgio o nell'Olanda, fondamentalmente quella era la zona dei fiamminghi, e in alcune di queste ci sono, Bruegel faceva tutti questi disegni con mille elementi, e diversi adesso ve ne mandiamo comparivano un po'. Questo è famosissimo, sì, no, ma ce ne sono alcuni famosi. Questo l'ha preso Lars von Trier in una scena di Nymphomaniac, se non sbaglio. Sei una persona veramente per fare delle di allegorie. Sì. Ma veramente questo è famosissimo. Sì, sì, no, ma effettivamente è molto molto famoso questo. Certo, prima in su, se andasse giusto, in giù. Guarda questo. E niente, sì, fondamentalmente questo guarda questo, il radio funziona di brutto e, perché nessuno di voi vede. Ma adesso ma ve li bello. Mandiamo tutti, ve li mandiamo. Comunque, al di là di questo, insomma, è un artista molto noto per fare questi quadri pienissimi di elementi tendenzialmente e in molti di questi quadri, insieme a mostri orribili che si mangiano altri esseri, ci sono appunto dei bambini che giocano con questo hoop ed effettivamente, tanto per smettere di essere occidentale centrici per una volta, anche in Africa, in Cina, forse addirittura dal 1000 avanti Cristo, e in Giappone si sono trovate testimonianze di hula hoop, di hoop, quindi di cerchi, ma in realtà cioè, una della l'ho mandata, quindi posso dire guarda cosa ti ho trovato. Bravo, l'ho mandata, vedi, quindi vedi. Da casa possono vederla sul loro vedi, Telegram effettivamente palesemente, sì, quello così. Lì esattamente è proprio lui ed effettivamente ce ne sono diversi e quindi possiamo affermare con certezza che ce n'erano già. In realtà a questo punto uno delle chicche diventa la hoop dance, che è la cosa che in realtà molto più si avvicina, perché fino adesso abbiamo parlato di dei cerchi e obiettivamente il cerchio è una delle figure più utilizzate in qualsiasi ambito, quindi evidentemente è molto più semplice trovare dei cerchi nella storia dell'uomo. Ma la hoop dance dei nativi americani è una cosa che invece assomiglia parecchio parecchio alla diciamo all'utilizzo un po' più coreografico che se ne fa poi con l'hula hoop, nel senso che come altre danze native la danza del cerchio non è diciamo non è acrobata ed è non è acrobatica ed è limitata nei movimenti, ma ha questo carattere diciamo coreografico. Ed effettivamente che cosa succede nella hoop dance dei nativi americani? Allora, il ballerino di solito compie piccoli passi durante l'esecuzione della danza. È una danza individuale, quindi da spettacolo in alcune tribù. Nello specifico dalla tribù dei White Mountain Apache, di cui ci sono forse anche dei video su YouTube, esatto, vedi? Che adesso vi mandiamo, non vi preoccupate. Che ce ne sono e effettivamente in questo caso appunto sì, il ballerino balla in mezzo al cerchio degli altri nativi americani e questa cosa diciamo ha da una parte l'aspetto di spettacolo, ma addirittura in alcuni casi ha degli scopi terapeutici, pare che sia ottimo per chi è stato colpito dai fulmini. E in questo caso che cosa succede? Che il ballerino si sposta in senso orario e antiorario come determinato dalla cosmologia e quindi dalla visione del mondo di queste tribù e fondamentalmente la velocità ritmica dipende dal numero di cerchi utilizzati, perché ne vengono utilizzati più di uno, ne vengono utilizzati tendenzialmente tipo 4-5. Meno cerchi ci sono, più è veloce evidentemente, ma in realtà vengono fatte delle composizioni anche molto ricche e molto difficili. Che cosa simboleggia? Perché a questo punto è molto più sensato, anche considerata come dire il tema dell'appropriazione di cui sono state vittime in questo modo i nativi americani, anche spiegare che cavolo vuol dire questa cosa che fanno. E quindi nello specifico ho cercato e mi dicono che i cerchi simboleggiano il ciclo infinito della vita senza inizio né fine. Fondamentalmente viene evocato con un singolo cerchio che inizialmente ha il ballerino il cerchio della vita, e vengono aggiunti altri cerchi che rappresentano altri elementi della vita, inclusi umani, animali, vento, acqua e stagioni. Alcuni ballerini imitano animali, uccelli o attività umane, tipo la cacciagione, la pesca, la semina, la raccolta, e in elaborate sequenze di mosse i cerchi sono fatti in modo da, diciamo, sono mossi in modo da incastrarsi e essere estesi poi al corpo del ballerino per formare delle appendici, e spesso si imitano tipo le ali o la coda. Quindi in realtà fondamentalmente è come dire, un'espressione, è molto vicino ad un'espressione della popolazione nativa, la quale mantiene oggi alcune competizioni aperte, in particolare nel New Mexico, ed è diventata ovviamente leggermente diversa, però insomma tant'è. A questo punto, siccome ho parlato a sufficienza, vorrei lanciare un momento di, visto che si parlava di appropriazione culturale parlando della hoop dance dei nativi, e vorrei mandare una canzone che è, per quanto mi riguarda, molto famosa, non so se lo sia effettivamente, ma che è Surfing USA. È molto famosa. Ok, dei Beach Boys. Ed è si difendono bene. Esattamente, ed è una canzone del 63. Ora, per chi non ce li ha presente, che ci sta anche, i Beach Boys sono un complesso, appunto, della fine degli anni 50, inizio anni 60, e fondamentalmente sono dei giovani abbronzati che cantano di surf, mare e giovani fanciulli e fanciulle, proprio, diciamo, siamo sulla West Coast, quindi in California, e insomma l'immaginario è un po' quello, no? È una canzone del 63. Ora, perché lo dico? Perché in realtà, cercando questa canzone, ho scoperto che c'era, anche su Wikipedia, c'era il separé controversia, e diceva: questa canzone cantata dai Beach Boys è stata, come si dice, è stata citata in giudizio, o sono state aperte, insomma, dei dialoghi su questa cosa, da un altro artista, che è Chuck Berry, che sosteneva che la canzone fosse molto simile alla sua Sweet Little Sixteen del 1958, guarda caso, proprio perché è del 58 noi ne parliamo. Allora noi ci sentiamo la canzone dei Beach Boys per il momento. Bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him surfing at Nassau, Ventura County Barn, Santa Cruz and Trinidad, Australia, Caribbean, all over Manhattan, and down Bohemian Way. Everybody's got surfing USA. Questa è Surfing USA, adesso non la stiamo facendo andare tutta, perché adesso ascoltiamo un'altra canzone, appunto, che è questa Sweet Little Sixteen, che è di Chuck Berry, che è un afroamericano impomatato, proprio esattamente come ti aspetti, diciamo, se i surfisti te li aspetti in un modo e lo stereotipo calza perfettamente i Beach Boys, anche Chuck Berry è abbastanza uno stereotipo dei suoi tempi, ma in realtà è perché è un'icona, giustamente, quindi l'ha fatta lui, non è che è uno stereotipo, però ci è riuscito bene ed effettivamente è abbastanza simile, come dire, al modello che avevo in mente. Allora, Chuck Berry fa questa canzone 5 anni prima, nel 58, si chiama appunto Sweet Little 16, e Chuck Berry sostiene che questa canzone sia molto simile alla sua, diciamo, ecco, mettiamola così. Allora, a questo punto noi sentiamo questa Sweet Little 16 e valutiamo quanto effettivamente ci assomiglia. Ladies and gentlemen, Chuck Berry, Sweet Little 16. They're really rocking in Boston, in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats wanna dance with Sweet Little 16. Sweet Little 16. Beh, che dire, cioè, non ci assomiglia minimamente. Ma sono due canzoni, no, completamente diverse. Io non capisco la storia del plagio, veramente. Non, infatti, mi torna. Ma non infatti, mi torna. Per fortuna, ti hanno e ci hanno dato ragione, perché Chuck Berry ha perso. È certo. Perché non si assomigliano. E tu ti senti più Chuck Berry o ti senti più Beach Boys? Dimmi un po'. Io so la risposta per me. Chuck Berry. Anch'io. Sì, più sì, Chuck sì, Berry, assolutamente. Impomatati tutta la vita. Sì, sì, no, poi surfisti mi stanno un po' qua. Sì, un po' quell'atmosfera là aussi che ti stanno un po' sui marroni. Sì, che può andare bene fino a un certo punto, sì. Però poi ti viene in mente solo lo spot dell'Avance e tutta questa cosa. Basta. Vale impomatarsi, esatto. Beviamo sopra e basta. No, ma glorioso. Poi Chuck Berry, in realtà, adesso abbiamo messo questa perché insomma stiamo dando un po' di spazio a tutti quanti, però effettivamente ce ne sono 10 che hanno fatto, che ma sono davvero? Entrate nelle, sì, Chuck Berry è abbastanza iconico effettivamente nella... Johnny B. Goode, per esempio, è di Chuck Berry, per dire, che è abbastanza famosa. E insomma, niente, quindi fondamentalmente parlando di plagi, smettendo di parlare di plagi e quindi smettendo di guardare alla Native Americans Hoop Dance, veniamo alla seconda al secondo plagio, diciamo, alla seconda appropriazione culturale. Perché hula hop, noi fino adesso abbiamo parlato di hop, che vuol dire cerchio, no? Hoop in realtà, però noi lo diciamo così, noi italiani lo diciamo così, ci piace dirlo così. Però hula da qualche parte deve arrivare, no? Fino adesso non ne abbiamo ancora parlato ed effettivamente a questo punto il hula si aggiunge già a questo punto nel Novecento, quando i marinai britannici arrivati sulle isole Hawaii furono affascinati dalla tipica danza del luogo, che guarda caso si chiama hula dance. Cioè non si chiama hula dance, si chiama hula, ovviamente, basta, visto che è hawaiano e la parola dance non ce l'aveva proprio. Però fondamentalmente insomma, questo movimento gli piace, ovviamente subito viene sessualizzata immediatamente la fanciulla esotica con i fianchi che si muovono a ritmo, e quindi fondamentalmente gli chiappano pure il nome e lo spiaccicano su un accrocchio, a questo punto, di furti culturali. No. Esattamente, anche se in questo caso i marinai erano britannici, ma comunque appunto notano che il movimento del bacino che caratterizza questa danza hawaiana è molto simile a quello che occorre per fare ruotare il hoop intorno alla vita, e a partire da quel momento il cerchio prende il nome del hula hop. A questo punto però non è diciamo, inizia ad essere conosciuto così, ma non abbiamo ancora parlato di, diciamo, tutta questa cosa gira intorno al 58, e a questo punto il 58 non è ancora stato preso in considerazione. A questo punto parte un'altra storia che inizia con una, appunto, in Australia, in realtà, con una società in sede lì, che comincia a produrre e commercializzare cerchi di legno. Arriva, o perlomeno arriva, non so esattamente come sia arrivato, considerato che a questo punto i trasporti erano abbastanza già più potenti, ma passare dagli Stati Uniti all'Australia non era uno scherzo nei primissimi anni 50. Comunque questa notizia di questo brillante prodotto della società australiana attira l'attenzione della WAMO. La WAMO è una azienda produttrice di negozi che nasce poco prima in California e che sarebbe diventata una delle case di produzione più famose in assoluto. I due fondatori di questa società californiana, che si chiamano Arthur Merlin e Richard Knerr, prendono spunto dal loop australiano e creano, cioè vorrei sottolineare l'espressione con centinaia di migliaia di virgolette, ma in aria non le vedete, e quindi pensatelo forte anche voi, e creano quindi un cerchio di plastica colorata a cui danno il nome, sorpresa sorpresa, di Hula Hoop, e lo mettono in commercio negli Stati Uniti. Maledetti. Ora però, perché è interessante a questo punto? Perché è vero, però se poi guardi la storia ovviamente della società con gli occhi della società, e con società intendo la WAMO, cioè quindi la società economica WAMO, ovviamente le sfumature sono un po' diverse e il racconto diventa similepico, perché questi tizi comunque, che pur l'avranno rubata e sicuramente avranno rubato anche delle altre cose, cioè per carità, avviano l'azienda dal loro garage, quindi cioè proprio nel purissimo stile degli eroi self-man statunitensi, tipo Steve Jobs, che inizia da, cioè proprio loro. Quelli. Quindi loro iniziano dal garage. Quindi se voi non studiate o non fate attività nel vostro garage, non siete destinati a non essere niente. Assolutamente niente. Siete in un co-working, peggio che niente. Peggio che niente, perché a quel punto, vabbè, non lo dico. Nel 1948, quindi, loro fondano questa società, questa azienda, nel loro garage di Los Angeles, e a questo punto iniziano la loro attività di vendita con una fionda originariamente inventata per falchi da compagnia, e quindi per la formazione dei falchi falconiere. Pensavo quando non ti andava a prendere un viene, falco. Esatto. No, in cui si getta la carne con si scaglia, e in maniera che si lancia il falco perché lo vada a prendere. Esattamente. E effettivamente questa fionda era nominata WAMO a causa del suono che faceva quando colpiva il bersaglio. Cos'è un'omatopeca? Cioè, certo. È tutta inglese, però. Certo, perché gli inglesi, certo, ma perché gli inglesi hanno, come tu ben sai, praticamente metà del loro vocabolario è fatto da verbi o sostantivi o aggettivi onomatopeici. È vero. Quindi questo non ha questo nome proprio, quindi figurati, proprio ottimo. C'è cioè proprio porta spalancata, ed effettivamente questo diventa il nome di questa società. Ora io che nasce in un garage. Che nasce in un garage. Quindi come immaginiamoci, tutti, focalizziamoci come tutti questi quelli di successo, due raga. Tizi occhialuti, uno se, con le lentiggini, se la vostra casa non ha un garage quasi pelato, già non beccate. Stipati nel garage della nonna, probabilmente, che fondano la WAMO. Esattamente. Che è il nome della fionda che vendevano. Esattamente. Cioè, che il nome del rumore, cioè, hai ben capito? È il nome del rumore, cioè, diciamo, è il suono del suono che faceva, che la, faceva fionda. La fionda quando lanciava la carne, prendeva il coso, e questo è diventato non solo il nome del prodotto, ma anche quello dell'azienda. E nello specifico, per l'appunto, a un certo punto loro decidono di mandare, fra le altre cose, sul mercato questo Hula Hoop. E io a questo punto ho trovato la pubblicità cioè la pubblicità video, voi vi ricate solo l'audio perché tant'è, però la pubblicità video dei primi anni 60 della WAMO, in cui si presenta la diciamo due oggetti, quindi due giochi da vendere e da comprare ai vostri bambini. Uno è il frisbee e l'altro è l'hula hoop, perché la WAMO ha anche venduto per prima il frisbee, e non solo, ma dopo vi dico anche che cosa. Comunque, per adesso beccatevi questo video, cioè questo audio di video. Here comes the Shoop Shoop Hula Hoop and the Frisbee family of flying fun. Now, seven different Frisbees, seven ways to discover the wonderful world of Frisbee flight. Frisbee, everybody's idea of a good time. Get in on the fun with the Shoop Shoop Hula Hoop, the hoop with the sound. For more tricks, more fun, get the Hoop of Champions. Frisbee and Hula Hoop, sold separately from WAMO. È incredibile. È frisbee incredibile. E hula hoop venduti separatamente da WAMO. Insomma, sì. Però belle, capito? Queste registrazioni, così mi piacciono sempre questi inserti così, di quindi ginnastica, sì, per stare d'attesa. Effettivamente la WAMO è stata la, diciamo, quella che ha lanciato sul mercato, non saprei dirlo altrimenti, perché a questo punto bisogna vedere chi l'ha inventato veramente. Però comunque ha lanciato sul mercato sia il frisbee che il hula hoop. Nello specifico ha diciamo, l'ha lanciato sul mercato, ha visto quanti soldi stava facendo, a quel punto l'ha ha comprato il trademark, fondamentalmente ha comprato il nome hula hoop, quella con la R di fianco col tondino, hai presente? Quindi l'ha iscritta effettivamente a, diciamo, all'albo dei brevetti, e quindi il brevetto numero 3079728 del 5 marzo 63 è quello del hula hoop della WAMO. Ma incredibile, cioè praticamente non solo l'hula hoop è stato inventato, è stato lanciato sul mercato da dalla WAMO, ma anche il frisbee, ma non solo il frisbee, ma anche la Super Bowl. Non è possibile. Che è la pallina rimbalzina, raga. Sto male. È sempre loro. E ti dirò di più, le Silly String. Le Silly String, che sono le stelle filanti spray, certo, sono sempre della WAMO. Incredibile. E ti dirò di più, anche un oggetto che non sapevo venisse venduto come tale, ma adesso l'ho scoperto, che si chiama lo Slip and Slide. Non ho idea. Che è lo scivola d'acqua da giardino, cioè il telone di plastica, certo, dritto e lungo. Ma certo, nei film americani c'è sempre. Bravo, in ogni giardino. Quello lì. Dove si getta dell'acqua e si scivola. Si scagliano e non si crepano tutta il petto sull'erba tagliata male, come succederebbe a qualsiasi, esatto, persona. Esatto, perché l'idea normale, è quella, scivolare, sono, nell'acqua e basta. Capito? Scivoli nell'acqua. Non c'è pendenza, ma poi, è messo per terra. Esatto, quindi se non esattamente perpendicolare rispetto al lancio, ti scagli via, cioè, con la basta, casa. Basta, ammazzi praticamente tuo figlio, schiacci il cane, esatto, fai un disastro. Cioè, c'hai abrasione su tre quarti. Anche della... questo targato WAMO. Cioè, in quel garage faville hanno fatto. Vabbè, spero che nel frattempo abbiano comprato. Mi piace immaginarli nel così, garage. Sono e garage sono ancora lì. E sono ancora lì. Ma sono infatti la WAMO esiste? Sì, sì. Tuttora? Sì, sì. Fantastico. Sì, sì, sì. E certo. Vabbè, figurati. Va avanti per sempre. Oltretutto il se hanno messo il brevetto quel fresco giorno del 5 marzo del 63. Se l'hanno fatto veramente, adesso ogni volta che quei fricchettoni di hooping.org si comprano il nuovo hula hoop con le stelle filanti, peggio, attaccate. Pensa appunto ai cultori del vintage, pensa un sacco di, pensa al circo, alla barbagia del circo, i leoni in mezzo agli hula hoop, queste cose, esatto, così. Esattamente. Boicottiamo tutti, i circhi. Sono tutti, beh sì, certo, questo sempre. Sì. Boicottiamo, pensavo, boicottiamo hooping.org, raga. Ma in realtà, Spamex, no, ma che bella questa cosa che si crei anche un gruppo dietro di ristretti, sì. Chissà cosa devi fare per entrare. Io amo l'hula hoop. entri. Ci sono le, esatto, probabilmente devi fare, non so, una serie di test d'ingresso con, sì, probabile, tuoi... esatto. No, figurati, no, no, saranno in cerca di nuovi adepti sicuramente. Anzi, anzi. Quindi sì, ma ci sono anche dei tutorial comunque, di ci sono anche di come un sacco di video esilaranti, sì, sì, anche di come insegnarlo ai bambini. Nel senso che ovviamente è una di quelle cose che quando lo fai e lo sai fare, eh beh, sembra certo, ovvio, no? No, non lo è, assolutamente. E invece prima di iniziare come la bici, cioè adesso dici come fai ad imparare ad andare in bici? Boh, cioè come fai a non sapere andare in bici? Esatto, però, perché nel momento in cui non lo sai. E tra l'altro credo che sia sempre della Wamo un oggetto che ho rintravisto in una di quelle robe... di quelle serie di album finto nostalgici sugli anni 90 ma certo, di Facebook. Io li adoro, io li adoro. Ok, proprio giuro. In uno di quelli c'era un altro oggetto che io avevo rimosso sinceramente, ma che è bellissimo, che è il praticamente aveva, adesso cerco di cerco di descriverla senza fare gesti, così non è possibile proprio sbagliarsi. Allora, tu hai una cavigliera attorno al collo, attorno alla caviglia, okay, ovviamente, e con una corda, okay, legata a quella cavigliera. Una corda molle. Esatto. Perfetto. E una palla, alla fine. E il gioco era ruotare la gamba in maniera da fare ruotare la... E saltare. E saltare. Ce l'hai presente? No, perché se ci penso, a Darona mi sembra, no, mi sembra difficile. Tu lo facevi ruotare con una gamba. Tu lo facevi ruotare e con l'altra saltavi all'avvicinarsi della palla. Ok, saltavi, okay, con un'altra gamba soltanto, sì, però. Non l'ho mai, no, visto. Era, cioè ti dovevi coordinare in maniera che continuando a girare tu riuscissi a saltare ed era coordinato rispetto alle gambe. E non era facile, sinceramente. Non mi sembra facile. Non era facile, ma era molto grazioso, tanto che a un certo punto ne era comparsa una versione di plastica. Ok. In cui la palla finale non era una palla, ma era una sorta di disco che nel girare teneva il conto dei giri che avevi fatto. Aveva tipo un contapersone. Sto male. Che ti giuro, ma è una roba anni 90 massimo. Ed è molto bella questa cosa, perché era molto divertente giocarci. Fermiamoci qua, perché sennò poi arriviamo a Tamagotchi e altre cose che io ti giuro ci faccio fare un bagno di... Ma esisteva in realtà qualcosa che si legava al corpo con una palla, una corda, però dovevi calciarlo poi, mi ricordo io. No, ed era legato quello... appunto o al collo. No, ma quello era, c'era, aspetta. Ed era del fitness però, era per fare esercizi. Allora io non so che esercizi facessi tu devi nella film tua intimità con Luca e Paolo, che si chiama tipo non è Tandem ma è l'altro, mi sfugge, allora però non lo ricorderò. Allora Mambo. Vai. Sì, dove c'è appunto Paolo che sta facendo esercizi al parco e ha questo coso al collo. Cazzo, e non fa me lo straridere ricordo. Devo dire onestamente non me lo ricordo, però sicuramente mi ricordo che c'era quel palloncino gonfiabile gigante con l'elastico. Certo, certo. Che tu tiravi a... Quello sì che me lo ricordo. Esatto, cioè a pugni fondamentalmente. Poi c'era il ping pong con la pallina attaccata. Perfetto, okay, ce lo ricordiamo. Poi c'era anche il bastone di legno con la pallina, bravo, attaccata a una corda che dovevi far saltare, bravo, e riagganciare. Esatto. Poi c'erano anche le due palline che se tu le facevi no, se tu facevi avanti e indietro col polso, sì, le due palline facevano i due movimenti opposti andando, sì, a sbattere, certo, okay, prima, sì, le ore 6 e poi ce la frai 12, in una puntata, esatto, di Futurama, mi, esatto, sembra. Esattamente, anche quello molto bello. A me, insomma, questa c'è un bel elenco, di giochi vintage probabilmente per buona parte erano di Wamo. Poi a un certo punto è vero che io confermo, almeno per quanto riguarda me medesimo nato nel 90, confermo che a un certo punto i videogiochi hanno fatto un disastro. Cioè, certo, se ci pensiamo bene, effettivamente l'oggetto... Se fossimo rimasti a giocare con la palla cerchio... Ma io con non il... parlo poi soltanto, solo e soltanto di... Aspetta, adesso non posso rispondere per metterlo in diretta perché ho il jack che non va. No, infatti, maledizione. Non si può, maledizione. Sta chiamando Guglielmo. E vuol dire che no, o non si ricorda che siamo in radio oppure vuole chiamarci in radio. O è una persona brutta. Esatto. Comunque... Allora, facciamo così, va bene, nel caso se no mettiamo delle canzoni. Sì, anche possiamo anche mettere delle canzoni, assolutamente. Oh. Per esempio, qua c'è qualcosa. Allora, sì, perché a questo punto io ho messo un omaggio alla tradizione a cappella corale, che è un'altra cosa super iconica degli anni 50-60. E quindi tutti quei gruppi di solito 3-4 persone che cantavano in armonizzando, diciamo, e hanno fatto delle super hit. Una era Lollipop, forse è già passata prima, probabilmente. È già passata prima. Esattamente, e in realtà ce ne sono parecchie ed è abbastanza bello perché è un fenomeno molto molto eterogeneo, nel senso che c'è maschile, femminile, caucasico, afroamericano, ci sono alcuni addirittura misto donne e uomini. E quindi in realtà ci sono mille composizioni diverse che però hanno questa combo, no? Questa armonizzazione comune, che è abbastanza divertente. E in particolare a questo punto noi ne mettiamo non una ma addirittura due di seguito. Sono una Le Marvelettes, e la canzone si chiama Please Mr. Postman, e l'altra è Do You Love Me dei Contours. Work, work, work, until the little bit messaggi estemporanei sui numeri privati che vogliamo ringraziare, quindi ringraziamo Raffaella che ci sta ascoltando. Ciao Raffaella. Ha fatto i complimenti per le musiche. Vero? Chiara, vero, spaccando. Nel frattempo, tra l'altro, sotto è ripartita la playlist, diciamo, di sottofondo, e c'è di nuovo Gianni Bigudi, Chuck Berry, che esatto, a questo punto esatto. Sappiamo che è lui. E in realtà ci stiamo avviando tendenzialmente alla fine di questa puntata, perché già abbastanza baggianate sono state dette sull'argomento. A questo punto, per chiudere diciamo le baggianate con delle vere e proprie baggianate, parliamo con disprezzo della gente che si impegna e sempre, sempre e comunque. Allora, fondamentalmente no, perché in realtà questa intro per dire che cosa? Che a un certo punto abbiamo visto quante persone comprano gli Hula Hoop e quante persone diventano super scimmiate di questa cosa, e a questo punto ovviamente anche gli organizzatori di eventi si rendono conto di questa cosa, e in particolare quelli di eventi per bambini sfruttano appunto la semplicità e la grande attrattiva dell'Hula Hoop e organizzano appunto tutta una serie di eventi per intrattenere i più piccoli nei parchi giochi di tutta la California a tema Hula Hoop. Negli anni 60 in realtà a questo punto la palla passa agli adolescenti, quindi non sono più i bambini ma sono gli adolescenti, diciamo, nella decade successiva, che tra l'altro probabilmente erano i bambini della decade precedente, non so bene come venga calcolato, forse erano particolarmente affezionati, loro ci tenevano proprio di brutto, comunque li hanno studiati per tutto il tempo. Fondamentalmente negli anni 60, così dice il sacro libro della saggezza, furono gli adolescenti a portare avanti la moda di questo gioco, e quindi iniziano ad essere indetti dei concorsi e delle gare in maniera che ognuno possa mostrare le proprie abilità nel fare roteare questo cerchio. Cioè, quanto tempo stai a farlo girare? Allora, praticamente, esattamente, uno dei primi record di durata per l'Hula Hoop è stato stabilito nell'agosto del 1960, quindi in realtà due anni dopo fondamentalmente il suo lancio in sul commercio, ma abbiamo visto che ce n'erano già 100 milioni, quindi diciamo qualcuno ce n'era. E questo record è stato stabilito dagli undicenni, quindi undicenni, Paulette Robinson, Charles Bird e Patsy Logringo. Questo è giusto ricordarli, perché sono stati fra i primi ad essersi impegnati, e tutto sommato non siamo così cinici da prendercela anche con degli undicenni. Che bello è il cognome Logringo. Logringby. Ah, scusa, ok. Quindi non è il suo. Non è il Quindi suo. Niente, il suo è brutto. Esatto. Pezzi, sei una delusione. Vai. No, comunque, via. Fondamentalmente questo record viene stabilito a Jackson, nel Mississippi, per la durata di... Sei pronto? Vai. 11 ore non e 34 minuti. Non è possibile. Giuro. 11 ore e 34 non minuti. E la cosa interessante è che l'evento è stato sponsorizzato e trasmesso da una stazione radio. Attenzione, per 11 ore. In particolare dalla stazione radio WOK Ilunga, che non quella. So bene come suoni. Quella, Walkie, probabilmente. Cercheremo il podcast e lo manderemo in onda. Chi lo sa, comunque in realtà nel 76, nel 19 agosto del 76, qualcuno, diciamo, è durato un pochino meno, ma è un episodio che va ricordato, perché con la durata di 10 ore e 47 minuti ha vinto una gara Mary Jane Freeze di 8 anni. Allora, no. Allora, io vorrei capire un po' le dinamiche di questa sfida, nel senso che io mi aspetto che ci siano delle persone che intanto vadano a imboccare di cibo, di allora, acqua. Che come tu puoi sopperire ai tuoi bisogni? Allora, diciamo, praticamente di cosa succede? Che se io ometto, oggi ancora però. Allora, che io ancora oggi, cioè ancora adesso, per l'ennesima volta nella puntata di oggi, prevedo le tue perplessità. E quindi, per finire queste baggianate che stiamo dicendo ormai da fin troppo tempo, prenderci gioco delle persone che si impegnano, farei un passaggio fra i record mondiali legati al mondo dell'Hula Hoop. Io in questo momento vorrei il tasto trombetta, è presente quello delle giostre, ogni volta, invece non ce l'abbiamo, lo installeremo prima o poi. Esattamente. Praticamente, allora, te ne metto un po' di così. Allora, Hula Hoop Marathon Record. Ok. Allora, le regole della Hula Hoop Marathon Record quali sono? Sono che l'Hula Hoop abbia delle dimensioni standard. E quindi ci siamo. Ok. Venga tenuto fra le spalle e i fianchi. E figli ci siamo. Ok. E ci siano 5 minuti di pausa ogni ora, anche accumulabili. Quindi ah, se tu storia. Lo fai per 4 ore di seguito, poi hai 20 minuti per ripigliarti un attimo. Ma fantastico, ma fantastico. Ok, okay, ci sono. Allora, c'è un record, ok, ufficiale, è un record ufficioso di cui si narra, ma di cui non si possono avere delle verifiche, e quindi non entra all'interno del Guinness dei primati. Ma ci piace lo stesso. Allora, Aaron Hibbs, statunitense, il 22 ottobre del 2009, okay. Quindi siamo adesso, siamo nei sì. giorni più o meno nostri, ha fatto girare l'Hula Hoop intorno alla vita per 74 ore e 54 minuti. Mi sta venendo un collasso alla testa. Considerando la regola che hai enunciato poco fa, sì, dei 5 esatto. minuti ogni ora e che sono cumulabili. Okay. Esattamente. Immaginiamo. Quindi in realtà sono 390 minuti di pausa. Di pausa. Spalmati su 72 ore. Esattamente. Esattamente. Potremmo passare una settimana a immaginare come questa persona ce l'abbia fatta. Ti dico solo che il record unverified, quindi okay. quello leggendario ma non verificabile, comunque l'hanno pensato, è di Roxanne Rose fra il 2 e il 6 aprile dell'87. Ok. Ed è di 90 ore. Sì, raga. Sì. Ok. Sì, ma la casta, i poteri forti non hanno voluto riconoscerglielo. Posso capire i motivi, posso capire. No, infatti quando c'è così tanta potenza. Una vergogna, guarda. E vado con il secondo? Vai. Cioè queste cose chiuderanno la puntata, te lo dico. Ma è quello il bello. Esatto. Tanto è tornato Elvis. Allora, the most hoops twirling at once from a dead start. Ah, perfetto. Cioè quanti più cerchi contemporaneamente vengono fatti girare, laddove con cerchi si intende sempre delle dimensioni standard. L'Hula Hoop siano sempre fatti girare fra le spalle e i fianchi contemporaneamente, ok? Vince il 25 novembre del 2015 il Guinness dei record il record dei Guinness dei primati, quello lì, proprio lui, con 200 hoops che girano contemporaneamente fra possibile. Le sue spalle e i suoi fianchi. Non è possibile. Marawa Ibrahim in Australia. Ma non ci stanno. Ci stanno. Ha un tronco lunghissimo. È incredibile. Ha 15-16 metri di tronco. È così. Anche il Guinness dei primati per quello, sì, cioè, sì, è l'uomo albero, è l'uomo albero che gioca tronco, con l'Hula Hoop. Esattamente, ho capito perfettamente, l'uomo quercia. A questo punto il più largo Hula Hoop fatto girare so che te lo stai chiedendo, è un record freschissimo, okay. Perché la competizione è accesa proprio adesso, in una maniera che adesso. Non ti immagini proprio. Quindi il 9 di novembre del 2017, vabbè, ma era Yuya Yarnada, penso che la pronuncia non sia questa, ma mi perdonerà Yuya se non so bene il suo nome, dal Giappone ha fatto girare intorno a sé un Hula Hoop di 16 metri e 10 centimetri. Tutto sì. questo è incredibile. Sì. Adesso io devo cercare queste sì. cose. Questo è possibile che ci sia, perché penso potenzialmente di averlo visto. I come lunga? Quella. U. No, no, Y. Era una citazione. Se tu non cogli solo le citazioni di un certo livello, I come è vero, lunga, no. Il nome di Ayeye Brazov. Y, U, Y, A. Quello. Spazio, Y, A, M, A, D, A. E niente, praticamente questo è il record. Ma a questo punto, benissimo, l'abbiamo trovato. C'è un altro record che io vi sottoporrei, perché io penso che fino adesso abbiamo scherzato, però ci sono delle persone che si impegnano veramente tanto. Cioè, noi poi ci prendiamo gioco di loro, ma loro si impegnano, perché praticamente ci sono delle gare di velocità di corsa con mentre si fa girare l'hula hoop. Quindi c'è l'hula running. Ok, quindi la gente corre mentre fa girare l'hula hoop intorno. Esatto, le regole sono sempre più o meno le stesse. Le dimensioni dell'hula hoop devono essere standard. Se l'hula hoop si ferma o esce dalle spalle e fianchi, bisogna fermarsi e ripartire solo quando si trova fra le spalle e i fianchi. Ok. Nel 94 tale Roman Schleder, austriaco, scusami, non australiano, ha corso i 100 metri con un hula hoop intorno alla vita in 13 secondi 84. Ok. Praticamente questi record ce n'è parecchi. C'è uno praticamente, adesso ce n'è uno per i 100, poi ce n'è per i 400, poi c'è il miglio, poi ci sono le 10 miglia. Alcuni ci sono sia uomini che donne, quindi con la doppia categoria, capito? Certo. Cioè, ce ne sono veramente, c'è un sacco di gente che si impegna, proprio tanta, e noi, vabbè, insomma, noi meno. Noi molto meno. Disprezziamo un sacco. Praticamente il record per le 10 miglia degli uomini, 10 miglia sono 16 chilometri, con 1 ora e 6 minuti e 35 secondi di Paul, detto Dizzy Hips Blair. Cioè, questo c'ha anche un soprannome da hula hooper, cioè vuol dire tipo fianchi frizzanti, una cosa del genere. Sto okay? Male. Cioè, lui c'ha un soprannome da hooper, con cui probabilmente scrive un sacco di post su Pink.org. Certo, sicuramente. È uno dei moderatori. È uno di loro. In realtà i suoi Dizzy Hips non possono competere con la detentrice dello stesso titolo di 10 miglia, quindi sempre 16 chilometri, donne, la quale ci ha messo di meno, pappappero, 1 ora e 5 minuti e 26 secondi, ok? E ha fatto questo record, lei si chiama Sasha Kenny ed è una britannica, e ha fatto questo record durante la maratona di Londra del... No raga, è tutto vero. Durante la maratona di Londra del 2012, ok? Nella stessa maratona lei in realtà ha anche concluso la gara sempre con l'hula hoop, quindi ha fatto una maratona come l'hanno fatta gli altri, ma insieme girava l'hula hoop intorno alla vita, e ce l'ha fatta in 5 ore e 5 minuti. Rettiliani, cioè, vabbè, gente che non esiste. Io sono senza parole, a seguire i più brevi ma altrettanto importanti record sono il più veloce, diciamo il far girare il più velocemente possibile l'hula hoop, e in un minuto sono stati girati, diciamo un hula hoop ha girato 243 volte intorno ai fianchi. Un minuto? Un minuto. Madonna. In un minuto 243 volte, ok? Poi c'è ci sono le categorie hula hoop con su una gamba, cioè nel senso che lo fai girare intorno ad una gamba. Sai che 243 volte in un minuto sono 4 giri al secondo? Sì. Cioè l'hula hoop ha fatto 4 giri in un secondo, sì. Anche di più, perché poi è 64. Vabbè, scusa, è un rapido calcolo, sì. Difficilissimo matematico, tra sì, l'altro. Sì, no, è clamoroso, è clamoroso. E c'è, c'è l'hula hoop su una gamba sola. Madonna. Per aumentare la difficoltà. Sì, ci sono delle gare di hula hoop su una gamba sola, sono 40 minuti intorno alla vita e 14 intorno alla gamba stessa. C'è un record di hula hoop fatto con una ruota di trattore. Mamma mia. Di peso di 24 kg. Ma... E c'è stato qualcuno che per 71 secondi è riuscito a fare girare una ruota di trattore, ruota intorno, di trattore alla vita. Intorno alla vita di 24 kg, sì, è successo veramente. Ci sono dei record per numero di volte che è stato fatto girare, numero di hula hoops che sono stati fatti girare contemporaneamente sul corpo mentre si era appesi, cioè che è una cosa che tu proprio ti svegli la mattina e dici oggi questo. Sono stati 41 hula hoops, quindi fatti girare contemporaneamente mentre si era appesi per aria. Il primo è quello che ha fatto l'hula hoop più in alto, è salito sulla cima del Kilimangiaro a fare girare questo cerchio intorno alla vita, e a questo punto l'ultimo con cui finisco è l'hula hoop sott'acqua, ok, che è stato fatto girare per 2 minuti e 38 secondi, ok. Ma che fatica. Perché voglio parlare come ultima cosa di questa? Perché quello che fa questo record è tale Asherita Furman, su cui io spero prima o poi di fare una puntata, perché è diventato il mio idolo personale. Perché è un tizio che di mestiere fa record, fondamentalmente, ma di cose proprio a caso. Cioè, non lo so, giro in pattini mentre si tiene in braccio delle galline, cioè cose a caso. Se le inventa anche, totalmente molto a caso. Alcune se le inventa, altre tenta di battere i record. E lui della sua vita proprio ha fatto una missione per l'onnipresenza sul Guinness dei primati. E tutto questo è veramente quasi così inquietante che è quasi bello. Lo è, ed è proprio lo spirito di questo programma. Ed è proprio quindi questo. Mi sa che una puntatona su questo personaggio su Asherita, forse vi tocca. Se non lo conoscete, andatevela a beccare. Immagini questo ogni tot sfoglia il giornale Guinness e dice: questo lo batto. E si ma tra l'altro, un tizio, cioè, sembra non proprio lo stereotipo di uno sportivo, cioè è un tizio, cioè sembra un amante dello sport alla domenica, tipo, non eppure, super tecnico, eppure. E invece passa della buona parte della sua vita a combattere i suoi pretendenti sul campo dei Guinness dei primati. Questo è molto bello, gloria eterna da Asherita Furman. Ovviamente statunitense questa persona. E a questo punto io quasi saluterei. Però io vedo che c'è ancora un ultimo escluso. E infatti in c'è un playlist. Ultimo escluso che a questo punto farei andare. Nel senso che una delle ultime, anzi, cioè una delle ultime, una delle prime canzoni che io ho ricordato pensando a questo paio di anni era questa qui che stiamo per mettere, che in realtà è del 1957, ma meglio, perché vuol dire che probabilmente in quel garage in cui stavano quei due Melin e Knerr stavano ascoltando Jerry Lee Lewis, e quindi con Great Balls of Fire passiamo all'ultima canzone, direi. Che bomba. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love as a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Goodness, you reckon you're quitting balls of fire. I let you love all I thought it was funny. You keep me long and you move me, honey. I changed my mind, love is fine. Goodness, greatest, you're quitting balls of fire. Love a shit. You're fine. So kind. I'm gonna love this world that you're mine. I took my nails and I put on the thumb. I really love it, but it sure is fun. Come on, baby. Drive me crazy. The goodness is great. Just whip me balls of fire. We'll be right back. ovviamente la puntata con la musica più bella di tutta la selezione che stiamo facendo. Sì, sì, non male, non male. Devo dire che effettivamente il livello era abbastanza alto e comunque erano tutte delle hit. Oh, assolutamente. Il vinile, un po' il vinile fa, nel senso sì, perché che uscivano singoli. Ovviamente nascono singoli, però effettivamente ci sono veramente una serie di hit gloriose di questo periodo qua, notevoli. Ringraziamo tutti e tutte che ci avete ascoltato, supportato, mandato un botto di messaggi, pure Raffaella che salutiamo, Gulli e Ricky che battibeccano sulla chat di redazione. E niente, salutiamo giù tutti i compagni e le compagne che sono a Zami in questo momento a prendersi una bella botta di fresco. Immagino. Immagino. Sì, infatti, perché in realtà, come vi dicevo fin dall'inizio della puntata, noi avremmo l'aria condizionata qua, ma per fare sentire, per fare rimanere umile Pica adesso che frequenta i VIPs. Esatto, esatto. Noi gli teniamo la temperatura a 98 gradi. E ripeto, con i VIPs io esco con una cervicale da quei posti. Boicottate l'aria condizionata, aprite le finestre, comprate un botto di ventilatori, riparateli come fa la Buzzi, non buttateli se sono rotti. Ragazzi, che magia. Ripara i ventilatori e fa programmi radiofonici, è incredibile. Pazzesco. Noi vi lasciamo con una bellissima cosa che sto per fare, cioè rimettere tutta la bellissima playlist che era in sottofondo durante tutta la puntata nell'auto DJ, quindi avete tipo un'oretta in cui riascoltarvi questi bellissimi pezzi che abbiamo mandato e c'è dentro anche la sigla, così, giusto, così. Giusto per buttarci qualcosa sotto sopra. Vi ricordiamo, tra l'altro, c'è anche una canzone che si chiama Hula Hoop di Plastic Bertrand, che esatto, era un che è ovviamente molto successiva, nel senso che lui è un artista veramente come dire esuberante, già noto per il brano Ping Pong, idolo di stile, veramente stilosissimo. Vi ricordiamo che la programmazione non è che è cambiata, nel senso che è diventata più, come dicono i filosofi adesso, fluida. È diventata una cosa più, siamo fluid, man. Siamo melmosi, insomma. Sigmund. Nel senso che quello che a cui avete assistito oggi, appunto, è boicottare la chat di Telegram, iniziare a mandare messaggi random dei programmi che partono. Vi aggiorno e vi comunico che Zona Rossa domani non si farà, a meno che Guglielmo non si paventerà qua o qualcun altro prenderà le redini di quella che è Zona Rossa, perché io sono in vacanza 2 giorni. Incredibile. A Pavia, tra l'altro. Madonna mia, è rimasto umile. È tutta questa mancanza di aria condizionata. È quella, ragazzi, è quella. Togliete l'aria condizionata e avete un popolo Charm, di Charm, Sicilia, le Cinque Terre, Pavia. È la meta nuova per le vacanze di 2 giorni. Perché neanche. Pavia ha charm. Ha charm. Esatto. Ringraziamo Chiara, grazie Chiara. Ringraziamo la navicella Pica di Radio ZM che continua imperterrita. Non si sta impallando mai, ragazzi. Cioè, ecco, incredibile. Grazie. Ma avevi quindi qualche altra guffata da fare? L'audio vuoi DJ dire qualche cosa? Viaggia su benissimo. Perfetto, ok. Vi lasciamo in compagnia di Little Richard e subito dopo di Lollipop con The Shoredette. Sì, no, è il contrario però. Sì, Shoredette con Lollipop, la loro esatto, canzone. Esattamente. Yeah. Buona serata. Ciao amici. Lucia, please come back where you belong. I'll be good to you, baby. Please don't leave me alone. I woke up this morning, Lucia was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucy, please come back where you belong. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucy, baby, satisfy my heart. Lucy, baby, satisfy my heart. I play fine with you, baby. The days are such a wonderful start.